triste el amor es soltanto una favola inventada da te per burlarti di me. Non esiste l'amor, è una storia ridicola, ma non ride il mio cuore, me l'hai detto anche tu che non m'ami già più. Non posso pensare che di un altro tu favola, mentre ridi di me, io non amo che te, e se piango d'amore, non mi sento ridicolo, sono pazzo lo so, ma il mio cuore ti darò finché un palpito avrò. Favola, mentre ridi di me, io non amo che te, e se piango d'amore, non mi sento ridicolo, sono pazzo lo so, ma il mio cuore ti darò finché un palpito avrò.